Sandro ha messo i puntini sulle i, una cosa che sintetizza quanto hai detto è, primo, che siamo in un mondo di 8 miliardi di uomini, e donne ovviamente, e 8 miliardi di uomini di cui almeno 4 miliardi di sfruttati e poverissimi, se non di più. E quindi da questo punto di vista vi è l'esplosione, la massa esplosiva che può essere in ogni paese. Tu hai parlato degli Stati Uniti, possiamo parlare della Cina o della Turchia, senza andare in altri continenti ancora. Quindi ciò che sta avvenendo adesso, la guerra che stiamo subendo adesso, che stanno facendo adesso, è la guerra di poteri indeboliti, l'hai messo in luce, perché sono indeboliti in perdita di potenza gli Stati Uniti, ma non da oggi, anche se sull'Afghanistan hanno organizzato un ritiro segreto che li fa ancora restare al centro dell'Asia. Sono indeboliti i russi e gli stessi cinesi, il cui capitalismo non ha più la forza espansiva che aveva un tempo. Detto questo, mettendo insieme il numero enorme di popolazione e di sfruttati da un lato e l'indebolimento delle classi dominanti e il loro parassitismo finanziario che domina in tutto il mondo, la guerra non può che essere una guerra molto più spietata, molto più sanguinaria, molto più schifosa di quello che furono il primo e il secondo conflitto mondiale. E da questo punto di vista dobbiamo dire le cose chiaro e tondo. Nella società attuale, che è la società che non ha mai avuto un tale livello di sfruttamento e di povertà di lavoratori e di dominio di parassiti, la guerra è quello che stiamo vedendo come primo scampolo e che, a dire la verità, in realtà abbiamo visto negli ultimi 20 anni in non so quante decine di paesi, mentre adesso coinvolge tutto il mondo. L'altra questione, per cui diciamo da un punto di vista prospettico, massimo pessimismo, ma anche massimo ottimismo, e abbiamo fatto bene a mettere in luce le lotte di classe, la lotta di classe che diventa sempre più importante e che ci permette di dire che il potere non è così forte, non è ancora nudo, ma non è così forte. Detto questo, volevo sottolineare anche una questione. La Russia fa la guerra in Ucraina perché deve dominare l'Ucraina, non solo per motivi economici, le terre, eccetera, ma perché quello è il punto di passaggio decisivo tra l'Europa e l'Asia e l'Eurasia. E non dimentichiamo che la Russia ha fatto e sta facendo quello che sta facendo in Ucraina, e gli ucraini, la borghesia ucraina, sta vendendo il suo popolo, il suo proletariato, le sue donne, i suoi uomini agli americani e agli europei, ma la Russia 2 mesi prima era intervenuta con l'accordo di tutti il 5 di gennaio in Kazakhstan, dove, appunto riferendomi a quello che ho detto prima, c'era stata una rivolta operaia contro il caro gas e il caro benzina che aveva scosso il paese dalle fondamenta. E la Russia è intervenuta per 2 motivi. Un motivo di classe: domare, terrorizzare gli operai in rivolta, che comunque non si fanno terrorizzare, perché c'è, abbiamo dedicato anche con Yuri una riunione a quello, ma anche dominare, dire che malgrado sia una potenza industriale poco forte, malgrado abbia poca popolazione, come ha detto Sandro, la Russia deve dominare l'Eurasia e essere il punto in cui passano i rapporti tra Cina ed Europa, cosa che gli Stati Uniti vogliono impedire, vogliono, come dire, mettere il dito sopra. Per cui dovremo fare altre riunioni perché la questione è così enorme, ma sempre dal nostro punto di vista, dal punto di vista dello sviluppo di una potenza sociale che spesso viene ignorata dai geopolitici, dai geostrateghi, dai militari di complemento che purtroppo ogni sera dobbiamo vedere in giro. Dico una cosa brevissima perché vi ho fatto bene a citare un paio di cose. Beh, la prima è quella della popolazione mondiale. Calcoliamo che nel 2050 10 miliardi di abitanti dovrebbe avere la Terra, 9 miliardi non apparteranno più alla razza, chiamiamola bianca. Il rapporto sarà di 9 a 1. Quindi è chiaro che questo diventa conflitto economico, sociale, di classe, non c'è niente da fare. Infatti a me, quando mi incazzo con quelli che se la prendono con gli immigrati, non è perché sono particolarmente umanitario, mi commuovo, dico: ma voi andate contro la storia, avete causato guerra, c'è un disastro totale in questi mondi, c'è una crescita della popolazione, è chiaro che questi vengono, l'avete creata voi questa situazione e non potete risolverla, perché poi il bello è quello, perché l'Occidente non può risolvere le sue situazioni, queste contraddizioni, perché quelle contraddizioni nascono proprio dallo sfruttamento che permette all'Occidente di essere ricco fino a quando potrà. Prima cosa. Secondo, la questione è molto importante. Nella geostrategia globale c'è sempre stata una teoria che parlava dell'Heartland e del Rimland, cioè una parte di continente, sostanzialmente la Russia, che è intoccabile per le sue dimensioni, ma separata dal mare. In effetti la Russia ha sempre avuto dei problemi mica da ridere, cioè la Russia che rivendica la Crimea e cerca di controllare il Mar Nero, perché quello è il mare che ha. Piaccia o non piaccia, quella sta conducendo una politica di potenza. Quindi quello è il mare, deve tenersi buono pure Erdogan. E quindi i paesi che hanno dominato il mondo fin da Atene sono stati i paesi che avevano lo sbocco al mare. Grecia, Roma, Portogallo, Spagna, Olanda, Inghilterra, Stati Uniti. Stati Uniti i primi a avere due sbocchi sui due oceani. Oggi si sta creando una situazione nuova in cui l'Heartland si è allargato a Cina e India e il Rimland si è ristretto e diventa un po' più difficile. Ma per un esempio molto banale, con le ferrovie attuali, la cosiddetta via della seta, quella che comunque arriva già a Düsseldorf, un computer cinese, dall'Occidente cinese, arriva in Germania in 14 giorni. Via mare ci metterebbe come minimo 45 giorni. Le merci più importanti prodotte in Cina viaggiano in ferrovia. Da qui poi anche la crisi dei container, adesso ne hanno un po' approfittato con la guerra, noli eccetera, ma questo è quello che diceva lui. La comunicazione Cina-Europa attraverso la Russia e con il supporto dell'India, perché mi fanno ridere tutti i giorni quando dicono: ah, Putin ha realizzato l'unità europea. No, Putin ha fatto sì che Cina e India, che si sono fatti guerra fino all'altro giorno, si stiano mettendo d'accordo. E mettere insieme Cina e India con un accordo economico che sarà temporaneo, 10 anni, 20 anni, vinca il migliore, poi ci regoliamo tra noi, è un fatto concreto che la politica americana ha realizzato e l'Occidente al seguito ha realizzato in questi anni. E questo è il fatto concreto. Non sto dicendo che devono esserci, piacerci i cinesi, il governo cinese, il governo indiano nazionalista di Modi o di Erdogan, di chiunque altro, ma quella è la realtà. Altri popoli si stanno affacciando violentemente, ma non con la violenza delle armi, no? I Rambo, i droni, le uccisioni, no. Tutto sommato Cina e India, se non partecipano al conflitto, possono stare sulla riva del fiume, veder passare domani i cadaveri dei loro nemici. Putin, Biden, Draghi, tutti quelli che vogliono. E questa è la novità storica, assoluta, che stravolge tutti gli impianti precedenti, a meno che non torniamo a prima dell'Ottocento, quando Cina e India erano già le maggiori manifatture del mondo. E questa è una novità veramente sconvolgente, inutile. Quindi la discussione sulle nuove monete, sarà la moneta cinese, sarà quella, fa parte di questo gioco. Se gli Stati Uniti perdono il dollaro, signori, se qualcuno comincia a pagare le materie prime in rubli, moneta cinese o altro, gli Stati Uniti non hanno più una fetta importante della loro ricchezza e della loro potenza finanziaria e politica. Bene, c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa, che vuole intervenire? Detto tra le tante cose, lo scenario europeo come del tutto frantumato, ok, però mi sembra davvero, mi sta bene, però mi sembra davvero una visione un po' pericolosa, cioè preoccupante. Idem dicasi per l'Italia, hai detto che l'obiettivo è Draghi, sono perfettamente d'accordo, ma è estremamente preoccupante perché non esiste un'alternativa credibile e praticabile. Allora, se tu puoi spostare un attimo di nuovo sull'Occidente, mettere il focus. Ma io sono qui perché sono molto preoccupato. Cioè, quando leggo su InfoOut si va verso un conflitto tra NATO e Russia, punto interrogativo, dico, ma questi dove vivono? Siamo già nel conflitto tra NATO e Russia. E questo conflitto penetrerà dentro all'Europa. Perché anche se qualcuno vuol farlo col conflitto, tra gli interessi francesi e quelli della Polonia e della Romania ci sono di mezzo 7-8 mari. Tra gli interessi tedeschi e quelli francesi, inglesi e della Polonia ci sono di mezzo 7-8 mari. Quindi è chiaro che purtroppo i riflessi di questo conflitto, che noi continuiamo a dirci conflitto per l'Ucraina, ormai questo è un conflitto, io l'ho detto ovunque, ne sono convinto, un conflitto mondiale. Si allarga domani, dopodomani, tra 5 anni, perché quando nella prefazione a questo libro dicevo la tendenza alla guerra c'è, non so quando, dove, come, perché, non facciamo mica la palla di cristallo, guardate che chi poteva dire che il 24 febbraio 2022 la Russia invadeva l'Ucraina? No, l'abbiamo detto il 24 febbraio, ma la cosa interessante è stata che dal 25 febbraio giornali che fino al giorno prima parlavano di diplomazie e dicevano no, la guerra non è possibile, cioè la Stampa di Torino col suo direttore Massimo Giannini, il 25 febbraio ha cominciato a parlare di terza guerra mondiale e il 26 febbraio della possibilità di una guerra nucleare. Quelle sono le cose che ci trasmettono, come dire, la vibrazione, che non è una buona vibrazione della nostra gioventù, la vibrazione del momento. Allora, c'è un intervento online. Se vuoi parlare, parla. Mi senti? Mi sentite voi? Ok. Sì, adesso ti abbassiamo un filo. Francesco. Sì, è Francesco. Okay. Ti abbassiamo un filo l'audio. Prova ad andare. Sì, ci sei, mi sentite? Sì, posso? ti sentiamo. Ok, vai pure. Cose. Io penso che dalla spiegazione precedente un po' che è stata fatta sia molto importante cogliere la dinamica di quello che sta avvenendo. Ci sono una serie di visioni riduttive che circolano in questo periodo, che si limitano a inquadrare il fatto della guerra nelle sue specificità, che può essere il Mar Nero, può essere l'energia, eccetera, oppure che dicono è un fatto economico, non si andrà avanti. Penso che invece noi dobbiamo porci veramente di valutare se esiste, e secondo me esiste, il pericolo di una terza guerra mondiale, se esiste il pericolo dello scivolamento nel conflitto nucleare. La guerra è rientrata in Europa in questa fase, è rientrata in maniera molto diversa che dal passato. Non è più la questione dell'89 in Jugoslavia, qui siamo all'interno di una guerra per procura, tra virgolette, in cui gli ucraini sono chiamati a morire nel confronto tra Russia e NATO, e dobbiamo cogliere quello che si sta muovendo, la dinamica che si sta sviluppando, che ci può far scivolare verso una terza guerra mondiale. Pensare che da questo conflitto non sia possibile o sicuro che non ci si va, vuol dire pensare che gente come Biden, come Putin, come Draghi, garantisca questo futuro all'umanità, che non sia volontariamente capace di contenere la situazione. In realtà questi non sono in grado, hanno iniziato una guerra la cui responsabilità è tutta della Russia, al di là della politica della NATO, di questa barbarie, ma bisogna cogliere questo meccanismo, che siamo andati avanti all'interno di una situazione, di una dinamica di sviluppo, di confronto tra due politiche ugualmente reazionarie, quella della Russia e quella della NATO, per spartirsi il mondo, per suddividersi le sfere di influenza, e che stanno levando il futuro all'umanità. Noi dobbiamo capire che siamo entrati in una fase in cui è veramente difficile opporsi. Qualcuno dice che la gente non vuole fare la guerra, che i giovani vogliono divertirsi, che non vanno. Ci stiamo dimenticando, secondo me, se diciamo questo, di quello che è avvenuto in questi anni. Io inviterei a ricordarsi di quello che è successo nella guerra contro l'ISIS e che tipo di campagna avevamo nella nostra società per l'adesione alla guerra nazionale. Il militarismo oggi in Italia sta avanzando sotto tutta una serie di aspetti fondamentali. Non so, ma faccio solo pochi esempi. Abbiamo visto due eroi in India accusati di omicidio che sono trasformati in eroi nazionali. L'esercito è entrato nelle strade a fare ordine pubblico. L'esercito ormai fa propaganda nelle scuole elementari italiane. Compartecipa della ricerca nell'università. Basterebbe questo a darci una certa idea, ma poco tempo fa, qualche anno fa, c'è stato il centenario della Prima Guerra Mondiale. Non una sola parola spesa per i soldati che sono stati appesi di fronte alle trincee contro gli austriaci perché disertavano. Non una parola spesa per i soldati italiani che sono stati fatti morire nei campi di concentramento austriaci perché codardi, allora l'Italia non gli ha mandato gli aiuti e così via. Non una parola per i soldati italiani che non volevano combattere e Mattarella che parlava del fatto che c'era il risorgimento marcato che molti italiani ci hanno. Basterebbe questo, ma vi racconto un'ultima cosa che è successa in questi giorni. D'ora in poi, il 26 gennaio, noi festeggeremo la giornata nazionale della memoria del sacrificio degli alpini. Che cosa ricordiamo con questa cosa appena approvata, con 189 voti al Senato e un astenuto? Si ricorda, dicono loro, l'eroismo dimostrato dal corpo d'armato nella battaglia di Nikolaevska il 26 gennaio 1943. Nikolaevska oggi si chiama Lubenka, è in Ucraina, nel 1943 era Russia, e l'esercito italiano, assieme a quello tedesco, cioè i fascisti e i nazisti, stavano invadendo l'Ucraina e la Russia. Se lo facciamo noi è una cosa che è eroica, se lo fanno i russi, che sono dei delinquenti dal punto di vista del governo, non ho niente da dire, è una cosa che va condannata. Teniamo presente questo. E teniamo presente che siamo in una fase politica in cui lo schieramento per l'Ucraina è all'offensiva, erode qualunque spazio, qualunque giustificazione, non dico al disfattismo che dobbiamo fare, ma qualsiasi tentativo di ragionamento su quello che sta accadendo, su quella che è la fornitura d'armi all'Ucraina. Allora, il PD è l'avanguardia, ma segue fino a Forza Italia. Ma noi oggi siamo in guerra. Siamo in guerra non solo perché forniamo le armi a chi combatte, e questo è combattere, ma ricordiamoci che da Sigonella partono i droni che vengono mandati sull'Ucraina. Appena sono poco prima dell'Ucraina, staccano il transponder, che è quel dispositivo che dà la posizione del veicolo volante, e vanno a dare le posizioni dell'esercito russo, delle navi russe, eccetera, per gli attacchi ucraini. Noi siamo in guerra. dobbiamo dire assolutamente basta a questa cosa. Per questo noi, contro la NATO, contro la Russia, ma iniziamo dal nostro imperialismo a dire che non deve più mandare armi all'Ucraina, che va finita questa guerra. Chiusura, nessun decollo dei droni, e questo è il punto di vista fondamentale. Oggi la maggioranza di chi si oppone dice vogliamo la pace, ma parla di dare armi agli ucraini, quindi vuole continuare la guerra, come dice gli Stati Uniti e come dicono i governanti italiani. Noi dobbiamo chiudere con questa cosa, ma direi quasi, ho visto poco tempo fa c'è un rapper che si chiama Slava, che ha avuto un po' di notorietà grazie alla propaganda live, è un ucraino, ha un canale su Telegram, faceva vedere un filmato fatto in Ucraina che diceva se succedesse da voi, e c'era l'immagine di Berlino con i razzi che arrivavano dai russi e faceva questa cosa. Allora, in questa fase noi vediamo una serie di distruzioni di città, di gente ammazzata, come non abbiamo mai visto prima nelle guerre fatte dalla NATO, ma lo vediamo. Iniziamo a fare qualcosa del genere, prendiamo queste foto e diciamo, mettiamoci sotto la didascalia, se non vuoi che capiti anche qui, blocchiamoli adesso. Non fidiamoci di Biden, di Putin, di Draghi, mandiamoli a casa, se no faremo questa fine. Iniziamo a pensare, non, il problema della guerra mondiale futura non è stabilire oggi quando ci arriveremo, ma che sia aperta una strada in questo nuovo disordine mondiale per fare questo, per arrivarci. Noi abbiamo, oggi come oggi, tre grossi punti che sono quelli fondamentali. Abbiamo un mondo che ci precarizza sempre di più. Abbiamo una guerra che avanza e un capitalismo che distrugge l'ambiente. Su questi tre punti noi ce la giochiamo, perché penso che sia difficile oggi bloccare una guerra, ma è questo il compito politico che abbiamo davanti. E bisogna essere chiari sul disfattismo contro la NATO, contro la Russia, o contro la Russia o contro la NATO. Non c'è alcuna giustificazione che tenga. Il 20 gennaio ci sarà uno sciopero. Secondo me questo discorso del disfattismo deve essere portato dentro. E chiudo qui e vi saluto. C'è qualcun altro che vuole un attimo, perché c'era il Flavio che prima. Allora, data l'ora, dico a tutti di essere molto brevi, perché il tempo stringe e lui deve anche tornare a casa. No, io volevo solo che notassimo il fatto che abbiamo rimosso la Jugoslavia. Cioè non si parla più della guerra di Jugoslavia. Era una guerra che io, che sono cresciuto in Friuli, ma anche se vivo a Milano da 50 anni, per me è come averla fatta davanti alla porta di casa, insomma. Io ho avuto un allievo di Lubiana, l'anno dell'inizio della guerra, che mi disse: io me ne vado via dalla Slovenia, cioè i coglioni rotti questi si sparano da un condominio all'altro, io non tornerò mai più qua e mi sono rotto il cazzo. Questa è una cosa. L'altra rimozione, ma è una rimozione casuale probabilmente, abbiamo dimenticato la Libia. Cioè la Libia, cos'è successo in Libia? Boh. Sono morti, che cosa succede? Beh, è tutto così. E chiudo. Queste sono le rimozioni tipiche che noi, come dire, utilizziamo nel racconto della guerra di questo periodo. L'altra nota che volevo suggerirvi, ma non è tempo di svilupparla, è che, a mio parere, noi viviamo in due mondi. Il mondo delle esperienze sensibili, del colloquio interpersonale, dell'affezione, e il mondo della rappresentazione di tutto ciò. E quindi uno dei limiti del nostro discorso è che diciamo sempre qualcuno hanno detto, ma chi ha detto? Uno, dove l'ha detto? Due, l'hai visto di persona? Tre, e quant'è che noi non vediamo un politico di persona? E questi li vediamo piccinini dentro un televisore, sono delle riproduzioni a cui noi diamo credito, cazzo. Questo dar credito alle rappresentazioni degli altri e alla rappresentazione che gli altri fanno di un evento di cui noi non facciamo parte. Io mi sono sentito parte della guerra di Jugoslavia perché i miei cugini stavano dietro Trieste, insomma. Ma noi non abbiamo esperienza diretta di questa merda, abbiamo solo un'esperienza riportata, e viene riportata dentro le modalità della comunicazione industrializzata, in cui, mettiamola giù così, più faccio scandalo più vendo. Questo è il principio generale, e dopo forse i fatti li esaminiamo con tanta cura quanto ci è permesso, perché non dirò non per il coglione al direttore, all'editore e a quant'altro. Era solo questo. Chi è che c'era? A lui. No, c'era la Valeria prima. Poi c'è. Chiaramente a tutti. Non le avrei chiamate rimozioni, ma volevo sottolineare le stesse cose che ha sottolineato Flavio. La Jugoslavia sarà parte in causa nuovamente dell'allargamento della guerra. Il Kosovo ha appena chiesto di integrarsi alla NATO. Non è una piccola cosa. In Bosnia c'è un sommovimento continuo, non solo dal punto di vista dell'elite al potere, ma dei movimenti islamisti. L'altra rimozione non è solo la Libia, è il fatto che la guerra che verrà, cioè la frammentazione, la contraddizione che non si potrà altro che vedere in Europa a seguito di questa guerra, questa frammentazione, questa contrapposizione troverà il suo sbocco nelle nostre guerre africane, che non so bene se saranno combattute con metodi tradizionali o meno, sicuramente anche tradizionali. I proxy, come si chiamano adesso, sono quasi finiti. Anche in Africa abbiamo buone probabilità di arrivare in tempi non lunghi a una contrapposizione tra nazioni europee, e probabilmente anche una contrapposizione tra Russia, Stati Uniti, Cina, che hanno interessi forti in Africa, ma comunque sta di fatto che è un terreno di allargamento, direi pressoché inevitabile, che ci vedrà coinvolti in prima persona molto più che con l'invio di armi, ma con l'invio di intelligence, con la non si dice mobilitazione, non importa, dei sottomarini, delle imprese dello spionaggio, delle imprese dell'industria della guerra. Credo che a questo punto Sigonella avrà un ruolo ridimensionato, perché tutto il Mediterraneo viene coinvolto in una nuova fase di guerra nella quale saremo sicuramente partecipi. Dal punto di vista del movimento volevo solo dire, vero, cosa stiamo a dire? Vogliamo la pace? La pace non c'è. Vogliamo sostenere, vogliamo la diserzione dalla guerra. Mettiamolo in chiaro, mettiamolo in concreto, che cosa può essere questo disfattismo. Può essere intanto sostenere ovunque si presentino i disertori e incoraggiare i loro movimenti e fare un movimento comune, e promuovere una diserzione civile, che può andare dal sostenere attivamente e praticamente quei gruppi che si oppongono appunto in concreto alla guerra, come quelli che impediscono negli aeroporti e nei porti l'invio delle armi, può essere il penetrare con contenuti diversi nelle scuole perché ci si opponga alla ricerca bellica. Si può arrivare, se si avesse un punto di forza, se si maturasse questo punto di forza, alla obiezione fiscale. È un programma che può essere comunque pensato e portato avanti, perché noi non possiamo limitarci a pensare alla reazione e all'opposizione adesso alla guerra. Abbiamo da pensare a un progetto di opposizione per i prossimi anni in una situazione che io penso sarà molto più cruda, estesa, violenta e difficile. Allora, adesso c'è un altro perché è prenotato online, poi c'è Roberto, c'è Natale, altri interventi non sono più possibili. Se mi sentite online, di Arturo che può parlare. Ciao, sono Arturo. Volevo dire una cosa brevissima. Rispetto al militarismo, vero, il militarismo sta avanzando, abbiamo i militari nelle strade, condivido perfettamente. E invece sulla battaglia dei diritti sono un po' in dissenso. Io credo che la nostra scommessa è quella di unire la battaglia sui diritti con la battaglia di classe. E penso che quello che ha fatto non una di meno sul raduno degli alpini, andare a toccare un simbolo nazionale come gli alpini, che è un simbolo militarista sotto sotto, mica tanto sotto sotto, con le denunce sulle molestie che ci sono sempre state in questi anni durante i raduni degli alpini, sia un atto di antimilitarismo importantissimo. La diserzione non è solo quella degli uomini maschi militari. Questa diserzione delle donne, secondo me, è importantissima. Ho finito, grazie. È interessantissimo quello che avete detto. Grazie di questo incontro. Ciao, grazie a te. Vieni. Due cose. Uno sulla questione sollevata da Francesco sul rischio di una terza guerra mondiale. Io non penso che questa possa essere, diciamo, lo sbocco dell'attuale guerra in Ucraina, perché non ci sono le condizioni, diciamo, geopolitiche. Cioè la Russia è, come diceva prima Sandro, è una potenza economicamente delle dimensioni di un paese tipo l'Italia o la Francia o meno della Germania, perché ci sia una guerra mondiale occorre che si formino due schieramenti che sono in grado di contendersi il dominio mondiale tra di loro, ma giustamente, come ancora diceva Sandro, India e Cina stanno a guardare che passino i cadaveri sotto i ponti, perché anche Xi Jinping non intende morire per Putin. Questo non vuol dire che non si stiano creando le condizioni per conflitti più generalizzati in futuro. Per ora è una guerra che Putin ha intrapreso avventatamente ed è stata forse anche promossa, nel senso che ce l'hanno attirato, ma viene utilizzata dalla NATO per ridimensionare questo concorrente che ha alzato troppo la cresta, diciamo anche al di sopra della sua capacità economica e finanziaria, per quindi ridimensionarlo e anche ridimensionare un potenziale alleato della Cina. Può essere anche questo il calcolo, diciamo, di quel settore. Comunque, a parte questi aspetti di analisi, sulla questione di costruire un movimento, di far crescere un movimento contro la guerra. Ecco, io è vero che le masse, cioè i milioni, si muovono sulla base di quelle che sono, di quello che sentono sulla propria pelle, a partire dai prezzi che aumentano e che quindi tagliano i salari, e che questa guerra accelera questo processo, se non provoca una recessione, perché allora potrebbero anche invertirsi le tendenze. Ma e quindi su questo lo sciopero del 20 fa leva anche su questo, per far vedere cosa porta la guerra a te. Appunto, non sta portando i morti nei sacchi, perché l'Italia, appunto, si stanno usando gli ucraini come carne da cannone, e quindi non si creano quelle situazioni come si sono create ad esempio durante la guerra del Vietnam negli Stati Uniti, ma un malcontento, una diffidenza, una mancanza di adesione alle campagne belliciste, lo vediamo, non c'è entusiasmo, magari sì, un po' di ben pensanti, eccetera, dicono bisogna difendere l'Ucraina e compagnia, ma non c'è questa adesione di massa. Quindi da qui si può partire, come abbiamo fatto anche il 1° maggio con le manifestazioni, per portare lavoratori, almeno quelli un po' più consapevoli, un po' più attivi, a schierarsi contro la guerra. Ma io credo che si può andare oltre questo, diciamo, circuito dei sindacati di base e allargare il perimetro verso giovani, verso altre persone che non si sentono contro, quello che viene avanti dal nostro governo, dal governo italiano, che viene avanti anche dagli stessi media, da questa campagna. E quindi io penso ci siano le condizioni per formare un comitato internazionalista contro la guerra su scala nazionale, che metta insieme tutti quelli che sono, diciamo, dalla stessa parte, che sono contro il governo, la sua partecipazione alla guerra con le sanzioni, con l'invio delle armi, anche con queste operazioni dei droni, eccetera, eccetera, che quindi ci schieriamo contro questo e ci schieriamo allo stesso tempo andando a cercare gli altri che come noi sono contro su entrambi i fronti, quindi sia sul fronte occidentale che sul fronte russo, bielorusso, kazako, eccetera, e quindi cercare di da un lato unire quelli che in Italia, e secondo me non sono piccole minoranze come siamo qui, ma anche quanto riferiva Iuri sull'interesse che c'è in giro un po' nelle varie situazioni per queste posizioni, ecco, forse da qui può partire anche in una iniziative concrete di opposizione, può partire anche una ripresa di una consapevolezza di internazionalista in Italia. Dov'è? Sì. Io penso che la questione sia un pochettino più complicata di come viene affrontata. Nel senso che l'analisi che ha fatto il compagno è perfetta. La guerra mondiale non si sa bene quando scoppia, non è qui il preliminare. Qui si stanno mettendo basi per verificare un po' gli armamenti che si mettono in campo. Il conflitto vero verrà fra 5-6 anni, perché il conflitto vero coinvolgerà direttamente la Cina con gli Stati Uniti d'America per la supremazia mondiale. Come gli Stati Uniti d'America si sono affermati definitivamente con la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti d'America dominano il mondo, adesso il problema si pone più a Oriente. La Cina, grazie a quello che è successo, grazie proprio alla natura stessa del capitalismo, che ha la necessità di andare alla ricerca continua di mercati, si è talmente sviluppata che necessariamente dovrà dare un colpo in testa all'imperialismo vecchio, e si affermerà quindi un imperialismo nuovo che cercherà di controllare il mondo intero. Il problema di fondo è che quando facciamo un'analisi di questo tipo, noi facciamo un'analisi sempre a perdere, che siamo tanto bravi ad analizzare quello che succede, poi meno bravi a verificare quello che noi possiamo fare per impedire che quello che succeda, succeda realmente. Perché quello che succede, succede sempre sulle spalle della classe che noi diciamo di rappresentare. E provate a pensare, a riflettere un attimino, che quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, la classe operaia aveva le sue organizzazioni. Chiaro? Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, nella disgrazia generale dello stalinismo, la classe operaia continuava ad avere le sue organizzazioni. Oggi come oggi, a livello internazionale, non a livello nazionale, a livello internazionale la classe è completamente sprovvista di direzione politica. Allora il problema che si pone è di cominciare a fare dei passi in avanti prima che il conflitto vero esploda, per cercare di dare una direzione politica vera alla classe operaia in Italia e, come diceva Roberto, provare a dargliela anche a livello internazionale. Che non è che con i movimenti che nascono spontaneamente si possa impedire perché lo scoppio della guerra, perché la classe avversaria fa regolarmente il suo lavoro, non perde occasione, non perde giornata per dire, per inculcare nella mente della gente che la guerra sembra che sia una cosa normale. Per noi e per la nostra classe la guerra non è normale. Quindi se noi ci vogliamo opporre, dobbiamo prepararci a organizzare direzione politica della classe. E chi può organizzare questa direzione politica? I gruppi internazionalisti. Chi sono i gruppi internazionalisti che si richiamano alla tradizione del movimento operaio? È lì che bisogna cominciare a cercare, perché se non creiamo direzione politica non c'è assolutamente nulla da fare. La guerra scoppia, scoppieranno eventualmente i moti contro la guerra spontaneamente, ma se questi moti spontanei non vengono indirizzati fanno la fine di quello che è successo negli Stati Uniti d'America, che la radicalizzazione c'è stata, questa radicalizzazione non incontra direzione e si perde nei rivoli generali. Quindi il nostro compito è quello di preparare la rivoluzione, ma per preparare la rivoluzione dobbiamo prima preparare la direzione. Senza direzione non si arriva da nessuna parte. Sì, ma una cosa velocissima. Sì, allora, io prima ho sentito che si parlava di tensioni sociali che sarebbero scaturite dalle conseguenze economiche della guerra e come poi sarebbe dovuto nascere da questo un'opposizione anche qui in Occidente, in Europa. E questo secondo me è senz'altro vero, perché anche storicamente poi è una dinamica ricorrente. Però io mi chiedo se di fronte alla possibilità di una guerra su vasta scala, che comunque mi sembra che sia anche riconosciuta come possibilità concreta da parte dell'opinione pubblica, non germoglia un'opposizione qui e da adesso. Non è forse anche in parte da imputare al fatto che non siamo capaci di costruire un discorso adeguato alla situazione? Perché penso che questa angoscia possa essere condivisa da più di quanti si creda, e penso che possa essere una cosa su cui riflettere, per quanto poi forse l'angoscia non è tanto un sentimento di classe, ma più una cosa diffusa, non so. Sì. Basta, volevo solo dire questo. Va bene, per 5 minuti. Ti lascio i miei riferimenti, se mi scrivi una mail tu... Sì, ok, va bene. Okay. Va bene. Perché avrei cose. Va bene, ti... Volevo dire una cosa che magari ti interessava. Però... scusa. Ah no, scusa. Vi rubo ancora pochi minuti, ma per le cose che sono state dette. Comincio come al solito dalle domande poste dai più giovani, perché tanto il mio libro, quando l'ho scritto, era dedicato alla mia nipotina di 4 anni. Perché toccherà le giovani generazioni far fronte a questo. Noi adesso ne parliamo, ma dobbiamo ammetterlo, noi qui con una certa età avremo scarso peso in queste questioni. Possiamo mandare il testimone. Ed è questo il discorso importante da fare. Io credo, quello che dicevi tu era molto importante, ma è proprio quello che era implicito nel discorso che ho fatto prima. Per troppi anni la sinistra, anche il movimento antagonista, di guerra non ne ha parlato, tranne poi fare un po' di tifo o non tifo, perché poi sappiamo che qui in Italia ci sono quelli che vogliono andare in Donbass e quelli che vogliono andare in Ucraina. E per quello di disertare diventa molto importante, ma questo è figlio di una confusione e questa è la prima cosa. Io prima non ho parlato di Jugoslavia e Africa, capisco tutte le cose, ma veramente pensate a Mattarella che disse che era da 70 anni che non c'erano più, no, 80 anni che non c'erano più guerre in Europa, si è dimenticato la Jugoslavia, certo, ma lo do... sottosegretario alla difesa quando ha fatto bombardare la sottosegretario alla difesa. Ma al di là di questo, alcune cose le do un po' per scontate, scusatemi, guardate che nella Libia c'è una questione molto importante, al di là di cosa è successo, ma in Libia Francia e Inghilterra hanno portato via il petrolio italiano. Quando noi ci stupiamo che dal 2014 l'Italia ha incrementato il rapporto con Putin ed è colpa di Berlusconi, perché è sempre colpa di qualcuno, non di meccanismi sociali, politici, economici reali, ma quello abbiamo fatto perché da un giorno all'altro, grazie anche alla cretineria, alla viltà del governo italiano, adesso non voglio essere nazionalista, non lo sono, ma si è fatto portare via la Libia sotto il naso, quella che era la fonte del gas e del petrolio italiano. 448 francesi e poi non solo, non se lo sono nemmeno tenuti i francesi e inglesi. Adesso quelli che comandano in Libia sono turchi e russi. Quindi voglio dire, l'idiozia portata all'ennesima potenza. Chiaramente in un discorso non possiamo, quando parliamo di disordine mondiale dobbiamo pensare di tutte queste cose qui, dei conflitti in Africa, del fatto che lì si stanno scontrando Cina e ci sono modelli nuovi di sviluppo lì, perché adesso è inutile che diciamo vanno i cinesi e portano via le cose, ma i cinesi costruiscono fabbriche, autostrade e ferrovie e quei paesi lì si sono astenuti nella votazione all'ONU. E non l'hanno fatto solo perché i cinesi gli hanno detto di farlo, è perché tutto sommato, piuttosto che gli occidentali, meglio quelli. È chiaro che è sempre un regime di classe, di dominio, eccetera. Quindi è chiaro che, come ha detto un compagno prima, dovremmo far qui 12 riunioni, non solo una, da questo punto di vista. Sulle iniziative, io do per scontato che ci sono iniziative, io sto girando mezza Italia per tenere questa conferenza, non per vendere il libro, come ho detto prima scherzando. Ho parlato con i portuali di Genova, sono stato in un sacco di posti. Ho visto delle cose concrete, a Torino gli studenti del Politecnico che hanno organizzato un movimento di studenti e tecnici contro la militarizzazione del Politecnico di Torino, in una città in cui si prevede la formazione della prima cittadella delle armi in Italia, che si farà nell'area dell'ex Alenia e in cui sarà aperto ufficialmente un ufficio della NATO a Torino. Cioè, quindi capite, iniziative ce ne sono, do per scontato che ognuno di noi faccia la sua parte. Quello che a me dà fastidio, e lo dico sinceramente, è continuare a promuovere iniziative. Ma vogliamo cercare un obiettivo su cui concentrarci? Una parola d'ordine comune? Una che funzioni anche per gente che non è di sinistra e che la pensa come noi? Perché solo noi faremo poco. Per questo dico, è tutto vero, non è per scoraggiare nessuno. Ma fino a quando non ci saranno le grandi mobilitazioni ci sono nei disastri economici, nelle guerre, eccetera. E anche per chi dice prepariamo prima la direzione. Occhio, la rivoluzione russa comincia non nel 17, comincia nell'inverno tra il 16 e il 17, quando 1,5 milioni di soldati tornano a casa dalle trincee, ma non gli hanno detto i bolscevichi. Vogliono tornare a casa a vedere come va sono stufi di combattere, vogliono andare a vedere come va la campagna. E la rivoluzione russa nel 17 a Pietrogrado comincia con delle ragazze giovanissime che escono dalle fabbriche, non hanno niente da perdere, fanno sciopero e i bolscevichi sono contro, fino a quando non arriverà Lenin a dirgli, ad aprire, voi siete tutti scemi, finché non arriva, ma arriva Lenin. Ma Lenin lotta contro il suo partito due volte in quella situazione nell'ottobre. Nell'ottobre l'unico che lo appoggia apertamente è Trotsky, che con i bolscevichi ha ancora poco che fare. Quindi vuol dire che ci sono e gli stessi operai di Pietrogrado e soldati già a luglio avevano chiesto a Lenin di fare l'insurrezione. Cioè voglio dire, se non si mobilitano i soldati, gli operai, eccetera, non è detto che noi riusciamo a svolgere un ruolo e non è nemmeno detto, scusate il pessimismo, ma è vero, perché voglio dire, ho 70 anni, sono stato dentro a tutti i gruppi, ho una storia politica anch'io, come tutti voi, no? Chiudersi nella speranza che quel gruppo riesca a essere la fiaccola domani è una follia, punto e stop. Dobbiamo essere dentro le situazioni, dobbiamo portare le nostre idee ovunque, dobbiamo discutere, dobbiamo litigare, però quello conta. Poi si formerà, o formeremo noi magari, o dei giovani che hanno preso questo testimone, però in un contesto in cui effettivamente pratica e discorso, prassi e teoria si unificano, e si unificano nei fatti in maniera concreta e molto spesso rapidamente. Se no sarei con Lotta Comunista a vendere i giornali, a fare il primo anno di vendita, il secondo, il terzo, al terzo mi dicono sono venduto abbastanza giornali, divento militante come un venditore di Verca Folletto. Fate l'esempio di Lotta Comunista, da cui compro giornale, opere di Marx, eccetera, ma mi sembra abbastanza chiara, no, questa cosa qui. Per cui questa è la difficoltà concreta, però noi ci mettiamo in gioco, io sono qui a mettermi in gioco, cari compagni, tutti voi credo vi mettiate in gioco, nei posti dove siete, questa è la cosa che conta. Però poi, prima di dire, allora visto che io, te e lui siamo d'accordo, vediamoci sabato, facciamo manifestazione fuori dalla NATO, pensiamoci due volte, perché se oltre a essere noi tre c'è anche Marco, non cambia molto. Cambia, cioè, capite cosa voglio dire? Quindi la concretezza, la realtà con cui noi dobbiamo fare i conti, la complessità, parola odiosa, ma che in questo caso è questa. Non dobbiamo smettere un attimo di avere il nostro pensiero già oltre la barricata, non dobbiamo smettere un attimo di sapere che siamo di qua della barricata e ci mancano ancora i militanti che vanno sulla barricata davvero. Questa è la questione. E dobbiamo proprio, senza illuderci, e allo stesso tempo io non mi scoraggio affatto, non so, qualcuno ha detto, dice, forse Francesco prima, che è pessima situazione, però può anche essere ottima, esattamente così. Va bene, grazie a tutti e alla prossima. Grazie a voi.